Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia l'ultima puntata di Focus Economia della settimana e allora la cronaca, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Chiaramente la vicenda General Motors è da un lato e Chrysler, Fiat dall'altro, e quindi il tema Detroit, cosa sta succedendo e qual è il futuro dell'industria automobilistica americana, soprattutto visto che siamo in Italia, per quello che riguarda il ruolo che avrà Fiat in un accordo con Chrysler che, salvo sorprese, dovrebbe andare verso una conclusione positiva. Adesso vi daremo anche gli ultimi aggiornamenti. Sembra che anche i sindacati, che erano la parte più delicata, abbiano dato il loro ok, e a questo punto ci si chiede come, da un punto di vista operativo, funzionerà questa alleanza, che vedrà il Lingotto avere il ruolo non tanto, l'abbiamo detto più volte, finanziario. Non verranno tirati fuori soldi da Torino, ma un ruolo operativo e produttivo. Verranno forniti elementi, componentistica e però anche manageriale, perché non è un mistero che se l'operazione dovesse andare a conclusione, per Sergio Marchionne vi sarà un ruolo ai massimi livelli dentro la nuova Chrysler. Tutto questo mentre dall'altra parte si cerca di capire con General Motors cosa succederà non solo agli obbligazionisti ma al gruppo stesso. Poi parleremo anche di banche americane, perché oggi è uscita un'altra trimestrale, è una settimana importante per le banche americane. Lunedì vi sarà l'ultimo grande nome, Bank of America, oggi è uscita Citigroup. Dati migliori delle attese, anche se c'è il sospetto, diciamo così, l'ipotesi che la contabilizzazione dei dati sia stata un po' modificata. C'è chi dice sono state un po' abbellite le cifre, anche di questo parleremo. 349-238-6666 per i vostri sms. Per quello che riguarda le borse, e nel caso specifico la borsa italiana, Mibtel più 1,1, S&P Mib più 1,2, molto bene Mediobanca più 8,20 e Fiat, non a caso, più 7%, torna a 7,68 Fiat. Ansaldo STS più 5,5, ST Microelectronics più 4,8, Alleanza più 4,7 come ST Microelectronics, quindi ben intonati molti titoli, le generali più 4,2 come Alleanza, dicevamo, Prismian più 3, Popolare di Milano più 2,91, UbiBanca più 2,90, Geox più 2,80, Atlantia guadagna il 2,5 come Tenaris, il 2% è il rialzo di Mediolanum, del Banco Popolare e di Mediaset. Chi perde di più? In pregilo, pesante il calo, meno 7,6%, scende a 2,1 euro per azione, Fondiaria meno 3, Pirelli meno 2,3, Luxottica meno 1,4, Telecom meno 1%, euro su dollaro a 1,30, euro su sterlina fermo 88 pence. Le altre borse europee, bene Parigi più 1,2, Francoforte più 1, Londra più 0,90, leggermente negativa l'America sul Dow Jones, meno 0,1%, il Nasdaq perde invece lo 0,8%. Le altre notizie in breve. Vi ricordo che anche oggi il programma terminerà alle 18, poi infatti vi sarà lo speciale di Radio 24 sul terremoto. Il petrolio sempre sui $50, ormai è settimane che va a 48, poi a 51, ma insomma la media è intorno ai $50 al barile. Per quello che riguarda le banche americane, visto che già arrivano delle domande al 349-238-6666, ne parleremo più avanti, ma insomma oggi Citigroup, dopo che nei giorni scorsi erano uscite le trimestrali di JP Morgan, di Goldman Sachs, di Wells Fargo, e appunto lunedì è la volta di Bank of America. Dicevo, Citigroup ha visto i primi tre mesi dell'anno chiudersi con un utile di $1,6 miliardi dopo 5 trimestri consecutivi, quindi 20 mesi praticamente in perdita. L'utile è stato non sempre in perdita nello stesso modo, ma l'utile è stato realizzato grazie a delle entrate in bilancio che hanno beneficiato, e qui veniamo un po' all'abbellimento dei conti, dicevo, delle entrate in bilancio che hanno beneficiato di una normativa che aiuta le società sull'orlo del fallimento. Fatturato a 24 miliardi di dollari, 24,8 per la precisione, la perdita per azione è di 18 centesimi di dollaro, ma è comunque migliore delle attese, ci si attendeva una perdita intorno ai 32 centesimi di dollaro per azione. Questo non vuol dire che Citigroup sia fuori dalla buriana, anzi, in realtà la capitalizzazione di Citigroup è scesa da 255 a 22 miliardi di dollari e ha registrato perdite per un totale di 80 miliardi di dollari. Voglio dire, era una delle banche in cui veniva sostanzialmente, che venivano chiamate zombie bank, e ha ricevuto 45 miliardi di aiuti diretti dallo Stato, ma se aggiungiamo a questo anche le garanzie sui crediti, i sostegni pubblici dati a Citigroup sono pari a 250 miliardi di dollari. Parleremo di come gli Stati Uniti abbiano modificato comunque i criteri contabili delle banche. In sostanza, per i titoli non liquidi a fare da riferimento non è più il valore di mercato, ma una valutazione effettuata dagli stessi istituti di credito con modelli propri. Insomma, secondo molti analisti, in questo modo c'è un miglioramento, un abbellimento dei conti intorno al 20%. E poi una notizia che, come spesso facciamo, racconta la crisi più di tante analisi e come cambia anche il mondo dopo questa crisi finanziaria. Il call center della Delta, e quindi Delta Airlines, compagnia aerea americana, che era, come molti call center di grandi gruppi mondiali, basato in India o comunque basato in posti dove la manodopera costa meno, ebbene, Delta ha annunciato che chiuderà i servizi ai consumatori con base in India, torneranno a, avere sede negli Stati Uniti. Questo un po' per una politica così del Buy American o Employ American, se vogliamo, ma anche per le lamentele di molti clienti. E adesso però il bollettino dei licenziamenti. Sony Ericsson ha annunciato che dopo una perdita netta di 293 milioni di euro nei primi tre mesi, con un fortissimo calo delle vendite per il gruppo svedese, meno 35%, ha deciso di tagliare altri 2.000 posti di lavoro. Anche il gruppo giapponese Toshiba ha annunciato quasi 4.000 posti di lavoro che verranno tagliati, sono quasi tutti contratti a termine. Entro il marzo del 2010 Toshiba già ne aveva eliminati 4.500 nei mesi scorsi di posti di lavoro. Allora, il piano di salvataggio, veniamo all'Italia, dello stabilimento della Indesit di None nel Torinese, molte le polemiche anche perché si era deciso di spostarlo poi all'estero. Allora, oggi l'azienda ha presentato il piano, prevede il mantenimento di 190 posti su 600 attualmente occupati nel sito. La Indesit ha proposto anche di assegnare allo stabilimento di None il 60% della produzione di lavastoviglie da incasso, quelle destinate al mercato d'Europa occidentale, Olanda, Belgio, Lussemburgo, Francia, Spagna e Portogallo, e poi ha richiesto una cassa integrazione straordinaria per riorganizzare l'attività per un periodo quindi di 2 anni, prorogabile per altri 2, la messa in mobilità dei lavoratori vicini alla pensione, circa 70 lavoratori complessivi. Nel frattempo Carlo Purinegri, quindi parliamo di Pirelli e di quello che era il vicepresidente esecutivo di Pirelli Real Estate, riceverà 9 milioni e 400 mila euro lordi come indennità per le dimissioni anticipate rispetto appunto alla scadenza del mandato da vicepresidente, e 3 milioni di euro come riconoscimento per un patto di non concorrenza per un anno, e quindi in totale 12 milioni e 400 mila euro per il manager, che comunque resterà per 2 anni consulente del gruppo con un compenso di 800.000 euro l'anno. Lo Stato, veniamo al terremoto in Abruzzo, garantirà un'indennità di disoccupazione valutabile intorno agli 800 euro mensili anche per i lavoratori autonomi che operano nelle aree terremotate dell'Abruzzo. Lo ha annunciato oggi il ministro del lavoro Maurizio Sacconi, che all'Aquila ha firmato l'accordo definitivo con la regione Abruzzo. Nel frattempo, sempre in Italia, il dato di oggi, a febbraio, l'industria ha visto un altro calo del fatturato del 24% su base annua, quindi rispetto a febbraio 2008, del 3% sul gennaio del 2009. Molto male anche gli ordinativi dell'industria italiana a febbraio, meno 32%. Ripeto, gennaio e febbraio sono stati i mesi peggiori, vedremo come andrà marzo. Sarà importante capire se alcuni segnali di qualche ordinativo industriale in più, dell'esaurimento di alcune scorte di magazzino, potranno dare un miglioramento. Ne abbiamo già parlato a lungo nei dati, soprattutto congiunturali, soprattutto mese su mese. Ormai guardare all'anno scorso vuol dire, tra virgolette, farsi del male per forza, visto come è andata la fine del 2008 e l'inizio del 2009. E cala anche la pubblicità, perché secondo i dati Nielsen nel bimestre gennaio-febbraio è scesa di quasi il 20%, meno 19,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno prima. La carta stampata ha fatto un meno 27%, anche la televisione ha frenato, questa è una notizia abbastanza nuova, che freni la pubblicità in televisione, meno 16%, la radio meno 27% complessivamente, internet in aumento più 4%. Ultimo dato prima di passare al tema, il mondo assicurativo: nel 2008 la raccolta dei premi assicurativi è stata pari a 92 miliardi di euro in Italia, con un meno 7%, lo ha comunicato oggi l'ANIA, che l'associazione nazionale fra le imprese assicuratrici. Adesso, visto che anche qui vedo già molti messaggi, il 349-238-6666, il primo tema, le nozze sempre più vicine, poi staremo a vedere, tra Fiat e Chrysler. Il termine ultimo, lo abbiamo ricordato molte volte, è il 30 aprile, l'ultimo giorno utile per arrivare a un accordo, ma insomma dalle notizie che arrivano l'accordo dovrebbe essere vicino. Lo scrive infatti il New York Times anche oggi, perché si sta chiudendo, si dovrebbe chiudere a breve l'accordo fra la Chrysler e il sindacato United Auto Worker, e un accordo che è fondamentale perché praticamente già nei giorni scorsi dalla stessa Fiat erano arrivate le dichiarazioni sia di Sergio Marchionne che di Luca di Montezemolo, che senza un accordo con i sindacati, senza il via libera del sindacato, non si sarebbe fatto l'accordo Fiat Chrysler. E comunque, ottimista il New York Times oggi, l'accordo prevederebbe l'entrata dei lavoratori nel capitale, in quella che è la più piccola delle case automobilistiche americane, in cambio degli oltre 10 miliardi che Chrysler deve per i costi sanitari. Dei termini dell'accordo parleremo tra brevissimo, perché tra l'altro molti hanno scritto oggi, penso a Gaggi su Corriere della Sera, un pezzo in cui diceva: qui si va verso un modello renano, cioè i sindacati che partecipano all'azienda, un po' come una via di mezzo tra il modello renano e la nostra IRI, visto l'aiuto dello Stato. E comunque si è anche saputo che il governo americano e la Fiat nomineranno un nuovo consiglio di amministrazione della Chrysler se l'accordo andrà in porto, e quindi saranno il Lingotto e la Casa Bianca a scegliere il nuovo numero uno e il nuovo, diciamo, consiglio di amministrazione della Chrysler. E Sergio Marchionne riceve elogi dalla stampa internazionale. Il Financial Times, in editoriale oggi, scrive: Sergio Marchionne è un supereroe, attenzione però, difficilmente riuscirà a conservare il suo incarico di vicepresidente di UBS. E allora, gli ospiti per capire da un lato poi anche cosa capiterà a General Motors, perché noi siamo molto più occupati e concentrati su Chrysler, ma il vero big in difficoltà è anche General Motors, ma anche per capire che cosa sostanzialmente prevederà l'accordo nella parte organizzativa e poi gli sforzi di Fiat. Ringrazio allora da un lato il collega Andrea Malan, voce a Radio 24 quando parliamo del settore auto. Buonasera Andrea. Buonasera a tutti. E grazie anche al professor Giuseppe Volpato, che insegna economia e direzione dei settori di aziende industriali all'Università Ca' Foscari di Venezia. Buonasera anche a lei, professor Volpato. Buonasera a tutti voi. Allora, adesso, per non andare subito sulle cifre, io vi faccio ascoltare abbiamo organizzato un piccolo gioco, uno spot televisivo, nato in America, era il 1984, il numero uno della Chrysler si chiamava Lee Iacocca, molti di voi lo ricorderanno perché era figlio di immigrati italiani, era un guru. Sentite, diciamo, da un lato l'orgoglio, ma anche a questo punto potremmo quasi dire la, non la presunzione, ma insomma l'ottimismo con cui Iacocca descriveva i modelli e il futuro della Chrysler. Sports cars and luxury cars with turbos so powerful, so efficient, you'll never go back to a V8 again. Today every man and woman at Chrysler has a commitment to build cars that will take on the best, that will challenge BMW, Audi, even Mercedes for thousands less. I have one and only one ambition for Chrysler, to be the best. Oggi la benzina è rincarata, è l'estate del 46. Un litro vale un chilo di insalata, ma chi ci rinuncia, a piedi chi va? L'auto che comodi. Eh sì. Perché insomma Iacocca, l'avete sentito, diceva: noi vogliamo non solo essere meglio della BMW, meglio della Mercedes, meglio di tutti i marchi più prestigiosi, noi vogliamo essere i numeri uno. E stringi i denti la bionda, si sente una fionda e apporta un sorriso con la FIFA che Allora invece forse gli converrebbe ai manager Chrysler riascoltarsi Paolo Conte, Topolino Amaranto, perché invece adesso è la Fiat con i suoi modelli che, se tutto andrà in porto, andrà a salvare la Chrysler. Se le lascio sciolto un po' la briglia, mi sembra una briglia, rivali non ha. A Topolino non c'è più, c'è però la 500, ci sono tanti altri modelli. Allora, Andrea Malan, poi arriveremo anche alle cose molto più serie del professor Volpato, non che le nostre non lo siano, ma fa un po' effetto sentire a 24 anni di distanza, 25 anni di distanza, l'orgoglio, quasi la presunzione di Lee Iacocca, che diceva: noi saremo i numeri uno al mondo, niente Mercedes, niente BMW, e adesso, se non arriva la Fiat, praticamente chiude l'azienda. Beh, 25 anni di distanza, direi, nel settore auto di questi tempi sono secoli, per cui ovviamente nel frattempo possiamo solo ricordare che è passata attraverso l'acquisto da parte proprio di quella Mercedes cui voleva fare concorrenza, la convivenza difficile, la vendita poi da parte della Mercedes al fondo Cerberus e adesso la crisi, diciamo, finanziaria ancora più grave, quindi sicuramente l'azienda è cambiata numerose volte. Il dubbio, tra l'altro, che rimane adesso alla vigilia del possibile accordo con Fiat è cosa c'è davvero rimasto dentro Chrysler, al di là di alcuni modelli che ancora sono sul mercato, alcuni buoni, alcuni un po' invecchiati, al di là degli stabilimenti che probabilmente in parte andranno rinnovati per produrre appunto le auto nuove con la tecnologia Chrysler. Ci si chiede quali siano per esempio le competenze rimaste, insomma, e quante competenze dovrà dal canto suo invece Fiat apportare per rimettere in sesto la baracca. Sono tutti numerosissimi dubbi che sono di quella streccata, insomma, la strada anche dopo che l'intesa venisse eventualmente firmata. Ricordo solo, rispetto a quanto hai detto tu prima, che l'accordo con i sindacati sembra appunto molto più vicino, resta da superare lo scoglio dei creditori, che ricordiamo sono creditori di quasi 7 miliardi di dollari, sono alcune grandi banche e potrebbero vedere in un'intesa con Fiat un'operazione troppo rischiosa nel lungo periodo, preferendo quindi la soluzione del fallimento e della liquidazione dell'azienda a pezzi. Sicuramente il governo americano eserciterà un po' di moral suasion, quindi può darsi che alla fine tutto si chiuda con la quadratura del cerchio. È possibile però che appunto da qui al 30 aprile ci siano ancora delle sorprese. La situazione è talmente complicata e nessuno, neanche il governo americano, che pure ha in mano le leve più importanti, cioè quelle dei soldi, nessuno può controllare tutti i fattori in gioco. Allora, andiamo con ordine, perché poi vorrei invece anche passare al resto. Però le tappe dei prossimi giorni, Andrea, che cosa deve capitare? Si sta dando quasi per scontato l'accordo con i sindacati. Che cosa dovrà capitare da un lato, e poi il modello con i sindacati dentro lo analizzeremo anche con Volpato. I creditori, ma soprattutto il governo americano, se non ricordo male, ha promesso 6 miliardi se si farà l'accordo con la Fiat, gliel'ha promesso Obama. Vorrei capire se basteranno. Iniziamo da questi due aspetti. Dunque, per quanto riguarda i sindacati, vorrei solo ricordare che la presenza dei sindacati nel capitale non è una novità neanche negli Stati Uniti. Ricordiamo che della General Motors gli sindacati sono rimasti per anni in maggiorazionista attraverso i loro fondi pensione, lo erano già, probabilmente lo ridiventeranno adesso dopo aver visto evaporare i propri fondi precedenti, quindi diciamo che non è un modello e peraltro, almeno a giudicare da come è andata per General Motors, non è stato un modello particolarmente efficiente, visto che il board appunto nominato dagli azionisti fondi pensione ha lasciato che la situazione si deteriorasse fino a questo punto. Adesso, la settimana prossima, continueranno le trattative anche con i creditori, è probabile che Sergio Marchionne, l'amministratore delegato di Fiat, torni negli Stati Uniti al più tardi tra circa una settimana, cioè dopo il consiglio di amministrazione della Fiat previsto per giovedì prossimo, e quindi si cercherà di stringere, Marchionne cercherà con la sua consumata abilità di negoziatore di stringere sui vari fronti. Diciamo che da questo punto di vista l'intesa tra le due aziende, Fiat e Chrysler, è già cosa fatta, anzi di fatto ieri Bob Nardelli, l'attuale numero uno di Chrysler, ha ammesso che il nuovo management verrà nominato dalla Fiat e dal governo americano in caso di accordo, e quindi ha ammesso praticamente di essere fuori, di non avere più praticamente nessun potere. Quanti soldi potrebbero servire, Andrea, se è possibile fare una stima? I 6 miliardi promessi finora dall'amministrazione Obama, a detta di molti, non basteranno. In realtà dobbiamo ricordare una cosa, che i 6 miliardi si aggiungono a 4 miliardi già concessi prima, quindi Chrysler ne avrà dall'amministrazione pubblica americana 10, più quelli che arriveranno probabilmente, anzi sicuramente, sotto forma di aiuti alla ricerca, qualche altro miliardo di dollari, più quelli che arriveranno in parallelo dal governo canadese, Canada, dove Chrysler ha altri impianti. È stato calcolato dai colleghi di Automotive News qualche settimana fa che Chrysler riceverà complessivamente 20 miliardi di dollari, una cifra quindi già più consistente. Dipenderà molto dalla congiuntura naturalmente del mercato, quanto basteranno questi soldi, se saranno sufficienti a finanziare l'intero rilancio della Chrysler, cioè a durare finché non comincerà a funzionare l'effetto sinergie con Fiat, oppure se serviranno nuove iniezioni di fondi. È assolutamente difficile dirlo a questo punto. Un'ultima domanda per te, Andrea, e così abbiamo un bel po' di spunti anche per il professor Volpato. Immaginiamo che l'accordo entro il 30 vada a buon fine, quindi Chrysler riceve i 6 miliardi, c'è l'accordo sui prodotti, sulle componenti con Fiat. Abbiamo visto, abbiamo detto anche che ormai, se l'accordo verrà firmato, è chiaro che il nuovo consiglio di amministrazione, i nuovi numeri uno, i nuovi manager verranno scelti dalla Casa Bianca e dal Lingotto. C'è chi dice dovrà esserci anche un ruolo cruciale e operativo di Sergio Marchionne. Ma al di là di questo, cosa tu immagini possa capitare? Cioè che l'operazione venga gestita da Torino lo trovo molto difficile. La Fiat dovrà mandare dei manager a Detroit a questo punto. Non so, ricordo il caso Nissan Renault, in cui la Renault mandò in Giappone qualche decina di top managers per gestire l'operazione di fusione. Sì, lì in quel caso furono mandati una ventina di manager di vario livello, ma comunque in parte di livello abbastanza elevato, che rimasero lì parecchi anni, cioè cambiarono direttamente casacca e diventarono, da dipendenti Renault, dipendenti Nissan. Quindi è assolutamente immaginabile che debba accadere questo. Il problema per Fiat è che Fiat attualmente non ha le risorse manageriali per affrontare un'operazione simile, dovrà probabilmente procurarsele, nel senso che Marchionne, uno degli effetti dell'arrivo di Marchionne 5 anni fa al Lingotto è stato di snellire notevolmente la struttura manageriale rispetto a una situazione precedente probabilmente troppo abbondante. Le ultime uscite, diciamo, di manager anche noti come Luca Leto, per esempio, che è uscito proprio all'inizio di quest'anno, hanno visto comunque in quasi tutti i casi delle sostituzioni interne, quindi diciamo che al Lingotto non arrivano manager dall'esterno da almeno 3 o 4 anni, almeno a livelli sufficientemente elevati, e quindi c'è una squadra che è diventata progressivamente più piccola e ha visto una moltiplicazione di cappelli. Solo per ricordare quello che fa Marchionne attualmente, lui è amministratore legato di Fiat S.p.A., cioè della capogruppo, di Fiat Auto S.p.A., cioè della divisione auto, ed è direttore finanziario, CFO, del gruppo, oltre a di fatto fare un notevole lavoro anche su CNH, una controllata delle macchine agricole che segue almeno una volta al mese qualche giorno quando va negli Stati Uniti. e ad avere a tempo perso anche un ruolo importante, sappiamo, di consigliere d'amministrazione in UBS e di vicepresidente della banca svizzera UBS. Quindi già lui ha una serie di notevoli impegni, e molti altri manager di primo livello sono in una situazione simile. Mm-hmm. Quindi è chiaro che questo è forse il problema più importante che si porrà a Torino nel caso in cui l'intesa vada effettivamente in porto. Grazie Andrea Malan. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni. Adesso commenteremo anche la borsa. Fiat, vi ricordo che ha beneficiato di tutte le voci su un accordo imminente con Chrysler, più 6,90% a 7,60€, secondo miglior titolo, il primo è Mediobanca, più 7,1 a 7,90€. Professor Volpato, ripartiamo dall'ultima considerazione di Andrea Malan. Immaginiamo che l'accordo venga chiuso, vorrei capire, la convince questa idea che alcuni hanno chiamato renana, ricordando quella forma di capitalismo tedesco in cui i sindacati sedevano e siedono, in alcuni casi ancora adesso, nei consigli di amministrazione? Altri hanno detto che assomiglia all'IRI per il ruolo che ha lo Stato, e questa è la prima domanda. Poi vorrei parlare dei manager e dello sforzo che dovrà fare la Fiat. Allora direi che dal punto di vista giornalistico può essere così anche stimolante chiamarlo modello renano. In realtà dobbiamo considerare che il modello renano è strutturato in maniera ben diversa, nel senso che prevede nel consiglio di sorveglianza che ci sia una rappresentanza sindacale, e questo, diciamo, è qualcosa che riguarda tutta l'industria. Qui invece abbiamo un caso isolato, una situazione particolare in cui il sindacato viene, come dire, in un certo senso garantito attraverso la sua presenza dal momento che deve accettare una riduzione abbastanza significativa per quel che riguarda le assicurazioni sanitarie e anche probabilmente i livelli salariali e le ristrutturazioni che comunque dovranno essere fatte dentro Chrysler per rimetterla in grado di competere. Quindi secondo me diciamo siamo abbastanza lontani sia dalla situazione IRI, a quel tempo diciamo l'IRI attraverso Finmeccanica controllava Alfa Romeo e aveva, come dire, vi era un totale controllo da parte dello Stato. Modello renano, modello ancora diverso. Il modello Chrysler è un modello peculiare, siamo in una situazione di crisi, Obama sta, come dire, sperimentando con una certa creatività nuove soluzioni perché intende diciamo che Chrysler sia salvata e poi, come dire, ricondotta a una situazione normale per il capitalismo americano. Questo per quello che riguarda, diciamo, l'operazione come nuova struttura societaria, sì, e capitali. Veniamo alla parte manageriale. Anche qui, immaginando che l'operazione si chiuda, ricordava prima Andrea Malan, non si può controllare sicuramente Chrysler da Torino. Allo stesso modo la Fiat ha bisogno dei suoi manager di punta per gestire il gruppo Fiat. E quindi lei che soluzione può intravedere? Perché sappiamo che spesso nelle fusioni o negli accordi di questo tipo si scontrano anche culture di impresa e culture manageriali diverse. Sì, senza dubbio il confronto fra culture è veramente il nodo fondamentale di rilancio di un'azienda in crisi. Abbiamo visto che con l'accordo Daimler-Chrysler questa situazione non è marciata, abbiamo visto in passato BMW quando assorbì Rover, anche lì ci furono dei vari problemi. Certamente questo è uno scoglio importante da superare. La tradizione, diciamo, marchionne è quella di usare manager che hanno dato grande, diciamo, dimostrazione di capacità, impegno di lavoro, commitment, di utilizzarli in senso trasversale, per cui un manager particolarmente attivo, capace sul marketing viene, come dire, incaricato di supervisionare tutti i diversi settori. L'auto, ad esempio, viene incaricato di supervisionare anche Iveco, quindi veicoli commerciali industriali, CNH, e quindi macchine movimento terra, macchine agricole, eccetera. Ecco, questo diciamo è la soluzione Marchionne durante la fase di crisi da lui diciamo risolta a partire dal 2004 in Fiat. Presumo che questo sarà il modello applicato anche negli Stati Uniti. Naturalmente questo significa una fase di stress manageriale gigantesca che metterà a dura prova Marchionne in prima fila, perché è abituato a ritmi di lavoro impressionanti, ma anche tutti i suoi collaboratori. La situazione di sfida, di commitment darà adrenalina, però certamente sarà un compito davvero difficile. Quindi però mi sembra di capire che lei dia abbastanza per scontato che se dovesse essere chiusa, come tutti ormai immaginano, l'operazione, Marchionne andrà lì a esportare un suo modello, un modello che ha già funzionato. Sì, soprattutto in un primo momento, in una prima fase, dovrà essere abbastanza presente, ma poi naturalmente diciamo da lì Marchionne gli viene riconosciuta una particolare abilità nel valutare le persone, quindi il suo compito iniziale per me sarà proprio quello di parlare uno a uno con i manager di primo livello di Chrysler per vedere quelli che possono dargli un contributo, un appoggio, quelli che possono essere utilizzati per una strategia di rilancio, e poi procederà diciamo a indicare una persona, diciamo potremmo usare un termine comodo, un viceré che diciamo presidi la situazione americana, che gli riferisca direttamente e che gli consenta quindi di ritornare a seguire anche Fiat, che ha tutto ora naturalmente bisogno della sua guida, e in generale quindi i vari settori, da CNH a Iveco a Fiat, eccetera. E per concludere, professor Volpato, non è il tema centrale di questa puntata, però è passato un po' in secondo piano General Motors, che in realtà è quella che versa anche con quanto a numeri perlomeno nelle difficoltà maggiori. Lì lei che idea si è fatto? L'idea che mi sono fatto è che stanno decidendo di liquidare una serie di attività di marchi, alcuni diciamo che non hanno dato le soddisfazioni economiche e finanziarie di cui ci si aspettava, tipicamente come Saab, come Hummer, quei grossi veicoli fuoristrada utilizzati anche a livello militare, e anche diciamo altri marchi, Saturn, che è un marchio che in passato diciamo era anche importante per le vetture di piccola e media dimensione, e sembra che anche Buick debba seguire questa strada. Quindi secondo me la richiesta di Obama del passo indietro da parte di Wagoneer è stata proprio come dire una sorta di incentivo per dire dovete muovervi, dovete essere più rapidi, e quindi si stanno concentrando sul liquidare una serie di attività per poi concentrarsi sulla parte più sana di General Motors e utilizzare tutte le risorse raccolte attraverso liquidazione di vari marchi per rilanciare l'azienda. Anche lì non è una cosa da poco, molto dipenderà sia per General Motors sia per Chrysler dell'effetto che avranno queste manovre sui consumatori. Prima giustamente lei sottolineava assieme a Malan il problema se i finanziamenti americani sono sufficienti per rilanciare Chrysler e General Motors. Il problema è che in questi momenti entrambe le case stanno praticamente finanziando le vendite, cioè fanno sconti particolarmente elevati per poter mantenere una certa quota di mercato. È questo quello che crea la grossa uscita di liquidità, la grosso fabbisogno di liquidità. Allora, se ad esempio si chiuderà il cerchio con Fiat e questo verrà interpretato in modo positivo dai consumatori americani, allora questo renderà anche subito, a brevissimo termine, meno necessario sostenere con grosse campagne di sconto le vendite negli Stati Uniti d'America. Se questo si manifesta, ecco allora che le risorse finanziarie assicurate da Obama dovrebbero essere sufficienti, altrimenti diventa veramente qualcosa di difficile. Per cui poi alla fine tutto il piano reggerà se il mercato tornerà a comprare, diciamo anche banalmente, i modelli al di là degli sconti che in questo momento, come lei ricordava, sono resi possibili dagli aiuti di Stato di fatto a General Motors e Chrysler. Grazie anche quindi a Giuseppe Volpato in collegamento con noi, che vi ricordo insegna economia aziendale alla Ca' Foscari di Venezia. Ultima parte di Focus Economia, dunque la borsa, diciamo buona la giornata, più 1,7 alla fine Mibtel, più 2% S&P Mib, bene Parigi più 1,7, Francoforte più 1,5, Londra più 0,80, l'America invariata e perde mezzo punto sul Nasdaq. Lasciamo stare Fiat perché ne abbiamo parlato fino adesso, Mediobanca più 7,1, Ansaldo più 5,5, Alleanza pure, Unipol più 5,2 come generali, ST Microelectronics più 5, Mediolanum più 3,3, Geox più 3,2 come UbiBanca, Prismian più 3%, Popolare di Milano più 2,80, perde in pregilo e parecchio meno 7,5, Fondiaria meno 2,80, Luxottica meno 1,3%. Flavia Carletti, Radio Cori sulle 24 ore, buonasera. Buonasera a tutti. Dicevamo, io direi in pregiro meno 7,5 su un fronte e sull'altro fronte invece Mediobanca e Ansaldo. Sì, esattamente, sono stati i due protagonisti della seduta, in pregiudizio e in negativo, perché oggi è uscita la decisione della Corte di Cassazione che ha annullato l'ordinanza del Tribunale di Risiamo di Napoli che disponeva il dissequestro totale dei 750 milioni di euro che erano stati sequestrati al gruppo Impregilo nell'ambito dell'inchiesta sullo smaltimento di rifiuti in Campania. La Corte di Cassazione ha confermato il dissequestro solo per 301 milioni, mentre per la restante cifra doveva essere di nuovo vagliata la situazione dal Tribunale di Riesame. Quindi nel momento in cui la notizia precedente, in cui il Tribunale di Riesame aveva fatto salire il titolo quando il Tribunale di Riesame aveva disposto il dissequestro, oggi al contrario, invece nel momento in cui anche difficile per il mercato, una società si trova con 450 milioni di euro tra asset e liquidità bloccati, sicuramente il mercato non poteva che reagire in questo modo. Beh, insomma, tra avere il dissequestro di 750 milioni e avere il dissequestro di 300 milioni ballano 450 milioni, e questo è chiaro. Nel caso posto invece Mediobanca naturalmente oggi ha tratto beneficio dalla giornata positiva per tutto il comparto bancario, per le notizie arrivate da oltreoceano, e secondo alcuni analisti è andata meglio di altri, perché in particolare nell'investment banking alcune società, in particolare si parlava di JP Morgan, hanno riportato dei dati superiori alle attese, e quindi Mediobanca, per il suo particolare tipo di business tra gli istituti bancari, è quello che ha tratto più beneficio. E in più la principale partecipata di Mediobanca, che è Generali, è salita del 5,19% grazie alla spinta di una nota di Intermonte, che ha dato giudizio outperform e fissato un target di prezzo a 17,5 euro, scrivendo che adesso è il momento di cambiare un po' il giudizio sugli assicurativi, fino adesso è stato molto severo, e di fronte a dei piccoli segnali in qualche modo di ripresa, Intermonte scrive che adesso il giudizio su questi titoli, la loro visione cambia, e quindi comunque le due cose combinate hanno permesso a Mediobanca di salire del 7,11%. Visto che se lo chiedete, vi do anche i migliori e peggiori: Banca Profilo più meno 15%, Socotem di nuovo pesante meno 13,3%, e Seat di nuovo sull'otto volante meno 13%. Bene invece Gabetti più 22%, Mondo TV più 17%, chiaro che sono titoli anche sottili. Torniamo invece a quelli a maggiore capitalizzazione, oltre a Impregilo e Mediobanca, abbiamo visto salire di nuovo Unipol più 5,20, le generali tu le ricordavi e più 5,20 anch'esso, ed ST Microelectronics un altro 5%. Io farei Unipol e ST Microelectronics. Beh, Unipol, secondo gli operatori, ha continuato a beneficiare delle dichiarazioni di ieri dell'amministratore delegato Carlo Salvatori, che si è detto ottimista sull'andamento del primo trimestre dell'anno, anche se ha detto che comunque è ancora presto per la chiusura dei conti, c'è una soddisfazione del management, e inoltre Salvatori ha detto che comunque la strada intrapresa è positiva, anche se naturalmente sono stati chiusi solo i primi tre mesi dell'anno, ancora c'è incertezza per il futuro. Il fatto che comunque siano stati dati segnali positivi ha permesso sia ieri al titolo di guadagnare, è stato il secondo migliore della giornata, e di continuare a conservare oggi, di continuare ad avere forti guadagni. Sì, prego. No, invece poi passando a ST Microelectronics, oggi il settore tecnologico è stato molto andato molto bene in tutta Europa. Non è riuscita ad essere un freno neanche l'andamento invece negativo a New York, dove ci sono preoccupazioni in particolare per Yahoo, mentre ST, che fa un altro, è sempre tecnologico, ma fa un altro tipo di attività, in particolare nel settore dei semiconduttori, è salito sia perché ieri Nokia comunque ha dato delle stime positive confermando quelle per l'intero anno, in più ha detto di aspettarsi per il secondo trimestre un aumento della quota, ma in particolare poi stamattina anche Toshiba ha detto, ha fatto delle previsioni positive dicendo che per la fine, per il restante parte dell'anno si aspetta un calo delle perdite operative grazie proprio a dei segnali di stabilizzazione da parte del mercato delle memorie flash. Va detto che Toshiba questo annuncio l'ha fatto nel giorno in cui ha annunciato anche 4.000 posti di lavoro in meno, e va detto anche che, come ricordavamo in apertura, è stata particolarmente pesante la trimestrale di Sony Ericsson, con l'annuncio di altri 2.000 posti di lavoro in meno per il colosso svedese. Grazie a Flavia Carletti, buon fine settimana a te e a tutti i colleghi di Radio Colli, Sole 24 Ore. L'ultimo tema che vorremmo affrontare, quasi a commento e a chiosa, visto che si è chiusa la settimana delle banche americane, è proprio quello delle trimestrali americane. Nei giorni scorsi è arrivata JP Morgan, utili per 2 miliardi e 100 milioni, meglio delle attese. Goldman Sachs, utili per 1 miliardo e 800 milioni, meglio delle attese. Wells Fargo, anche qui meglio delle attese, 3 miliardi di utili. Oggi Citigroup, 1 miliardo e 600 milioni di dollari di utile dopo 5 trimestri consecutivi in perdita. Mario Platero, dalla redazione Sole 24 Ore di New York, buonasera. Buonasera. A te il commento finale, un primo bilancio, manca ancora Bank of America lunedì, di queste trimestrali. La domanda che ho per te è la seguente: la nuova normativa americana che modifica i criteri contabili è il motivo vero per cui questi conti sono più belli e a questo punto sarebbero abbelliti rispetto alle attese? Ma dunque, sicuramente quello aiuta, ma c'è da dire che c'è stato anche un ritorno del business tipico, tradizionale delle banche, sia sul fronte proprio del mercato al consumo, dove le banche stanno facendo piuttosto bene perché tengono conti correnti a costo praticamente vicino allo zero e si indebitano a costo vicino allo zero, e poi comunque riescono a caricare dei margini che sono comunque più elevati. Pensiamo semplicemente al fatto che i tassi sui mutui sono dei tassi che restano attorno al 5-6%, quindi nuovi mutui continuano ad essere firmati, insomma comunque al di là della crisi poi le cose in America vanno avanti. Quindi un po' un ritorno del mercato tradizionale, proprio quello del bread and butter, del pane burro delle banche. L'altro è un ritorno al movimento dei mercati dei capitali, di nuovo un'altra fonte di reddito importante per queste banche, mercati dei capitali che per un periodo lungo, soprattutto nel trimestre scorso, si erano di fatto paralizzati e quindi non c'era alcuna possibilità di muovere nulla. Ci sono stati poi andamenti molto buoni anche in settori particolari, su JP Morgan per esempio l'investment banking ha fatto molto bene, ha contribuito per quasi un miliardo di dollari in questo primo trimestre al cosiddetto bottom line della banca. E dunque era giunto il momento un po' per le banche così di tirare un po' le fila e vedere se effettivamente dal punto di vista dei conti le cose potevano essere rimesse un pochettino in sesto. E qui io direi, come dicevi tu, si chiude una settimana importante, anzi anche qualcosa di più di una settimana, perché ha cominciato Wells Fargo la settimana scorsa e chiuderà Bank of America all'inizio della settimana prossima, ma anche Bank of America andrà sicuramente molto bene. E allora a questo punto si aprono due strade. La prima, il messaggio vero, forte, importante che è emerso da tutte queste banche, forse meno da Citigroup in questa fase, resta comunque ancora un po' fragile fra tutte le grandi, ma tutte le altre hanno detto chiaramente che vogliono rimborsare i prestiti dello Stato, vogliono emanciparsi, fra virgolette, vogliono lasciare questo ingombrante abbraccio del governo americano, dello Stato, che nel momento in cui ha concesso soldi, finanziamenti del contribuente americano, in cambio ha chiesto anche controlli, la possibilità di mettere il naso in affari in cui le banche non erano mai disposti a lasciare che il naso di nessuno entrasse, a stabilire parametri per gli stipendi e i compensi degli executive e dei dirigenti. Insomma, è stata un po' una rivoluzione copernichiana quella che le banche hanno vissuto nel periodo tra il crollo Lehman e la fine dell'anno. Ecco, adesso il loro obiettivo è di staccarsi, ritornare a essere indipendenti, e non appena sarà possibile, soprattutto Goldman e JP Morgan, ma anche Wells Fargo, sono sicuro che lo faranno. Beh, perché era un abbraccio ingombrante, come tu dicevi spesso, anche subito. Grazie a Mario Platero, grazie a Barbara Bianchi e Mario Del Corno per l'assistenza in redazione durante la settimana. Noi ci risentiamo lunedì dalle 5 in poi. Da Sebastiano Barisoni, a voi in ascolto, un augurio di buon fine settimana.